Letture di Radio 24. Al principio furono le sfarfallate degli abbaglianti. Poi, quando il codice della strada vietò questa complice pratica tra automobilisti, si ripiegò sulla prudenza. Se un'auto con la targa di questa provincia rallenta, vuol dire che sa che qui c'è l'autovelox. Ora che la provincia è scritta troppo in piccolo, arriva a salvarci il navigatore. Più sicuri quando il navigatore GPS conosce la posizione degli autovelox e dei tutor e la segnala al guidatore. Un allarme e il piede sull'acceleratore diventa più leggero, mentre l'intelligenza di software e silicio avvisa che la velocità è eccessiva. Questi sistemi funzionano con un principio molto semplice. L'autovelox è considerato un punto di interesse, una coordinata geografica, e il navigatore conosce così la sua ubicazione sulla strada. Tanto basta per segnalare la posizione del rilevatore di velocità come se fosse un centro commerciale, una farmacia o un distributore di carburante. Con il tempo si sono evoluti. Ora sono in grado di segnalare le porte dei tutor, infallibili guardiani della legalità autostradale, i semafori intelligenti e anche gli autovelox mobili. TomTom e Garmin, i principali produttori di navigatori portatili, forniscono il servizio per l'aggiornamento delle informazioni sugli autovelox come servizio a pagamento. In particolare, la casa americana permette di utilizzare sia un metodo premium, realizzato con la tecnologia delle Cyclops, sia i sistemi gratuiti, come quello di Autovelox Italia, che utilizza i dati raccolti dal sito poigps.com attraverso il lavoro volontario di una community web. Ed è proprio sul concetto di condivisione online di informazioni che funziona il Coyote, sistema francese distribuito dalla Magneti Marelli. È un piccolo apparecchio munito di antenna GPS e modulo cellulare GPRS, che grazie a una SIM card permette di segnalare tutor e autovelox fissi e mobili con un aggiornamento delle posizioni di quelli fissi, che avviene in tempo reale. Basta premere un pulsante e il dispositivo trasmette la posizione a un server, che a sua volta la rende disponibile agli altri utenti. Sulla legalità di questi sistemi basati su un database di punti geografici non vi sono dubbi, in quanto si tratta di meri apparati di registrazione di posizioni pubbliche, ritenuti un modo per ridurre i rischi sulle strade. Sono utilizzabili in Italia e in molti paesi dell'Unione, ma non in Svizzera. Al contrario, sono vietati nel nostro paese i cosiddetti dispositivi AVX, che rilevano fisicamente la presenza di apparati autovelox, intercettandone i segnali emessi, oppure che interferiscono con il buon funzionamento degli apparati. L'autovelox sbarca sul GPS. È il titolo dell'articolo che avete appena ascoltato, pubblicato a firma di Mario Cianflone su Il Sole 24 Ore di martedì 7 dicembre. Canta e suona che ti passa. A Trieste, 12 musicisti e un tenore dell'orchestra del Teatro Verdi hanno preso alla lettera l'adagio popolare e, pur a libro paga del Teatro Friulano, se ne andavano a Venezia a suonare per i turisti delle navi da crociera. Poi le navi partivano e i musicisti, bontà loro, rimanevano a terra e rientravano alla base. I teatri piangono il morto per la mancanza di soldi. E la cultura in genere è bistrattata a causa della coperta delle risorse troppo corta. A Trieste, però, 12 musicisti e un tenore della gloriosa orchestra del Teatro Verdi bigiavano dal posto di lavoro e arrotondavano andando a suonare a Venezia per allietare i passeggeri della nave di crociera. Il sindaco del capoluogo giuliano, Roberto Di Piazza, presidente della Fondazione del Teatro, non ha chiuso un occhio. Avevamo ricevuto notizie di questo andazzo degli orchestrali che andavano a suonare su un transatlantico senza autorizzazione, dandosi malati o cose del genere. Abbiamo fatto delle indagini incaricando un'agenzia investigativa e, fotografie alla mano, li abbiamo scoperti. La storia di Italiana Furbizia è stata scoperchiata dal quotidiano locale Il Piccolo. I particolari non sono proprio edificanti, anche se non stiamo parlando di assassini. L'andazzo è andato avanti dal 27 maggio all'8 ottobre di quest'anno. La Ruby Princess, varata nel 2008, è un colosso dei mari che può imbarcare 4.600 passeggeri. Prima della partenza a Venezia, gli orchestrali della Verdi suonavano per i turisti, non certo per beneficenza. Si erano allontanati da Trieste mentre risultavano a disposizione del teatro per sostituzioni d'emergenza. Oppure, come nel caso dell'Otello del 27 maggio, avevano aderito allo sciopero che ha fatto saltare la prima recita. Qualcuno dei 13 era esentato dall'obbligo di suonare al Verdi, perché al mattino aveva donato il sangue. Lo hanno sorpreso a Venezia. In Italia di furbetti ce ne sono tanti, ma non si può continuare così, ribadisce Di Piazza. Al Verdi il personale costa 15 milioni di euro all'anno e abbiamo 23 milioni di debiti. Bisognava dare un esempio. Le singole situazioni e il peso degli addebiti variano per ogni professionista. Si tratta di 5 violini, 2 violoncelli, 3 viole e 2 contrabbassi, oltre che un tenore. Qualcuno è andato a intrattenere i passeggeri per 5 volte, altri in una sola data. Ma il problema rimane. Le lettere di contestazione sono datate 23 novembre e tutti avrebbero già risposto agli addebiti. La direzione del Verdi era disponibile a risolvere la faccenda entro le quattro mura del teatro. Di Piazza, nella veste di sindaco sceriffo, vuole evitare di infierire. Non sono il tipo che licenzia o sbatte in strada la gente. Per questi casi sono previsti 10 giorni massimi di sospensione. Ascolterò le loro risposte, ma bisogna dare un segnale di serietà. Il giornale del 7 dicembre ha pubblicato l'articolo che avete appena ascoltato. Tutti in sciopero per suonare sulla nave, a firma di Fausto Biloslavo. Il Corridoio 5 è tra i progetti prioritari dell'Unione Europea per i trasporti su ferro. Si tratta di una linea ferroviaria che, una volta ultimata, collegherebbe Kiev a Lisbona, attraversando l'Italia del Nord da Trieste a Torino, con in più una diramazione verso il porto di Genova. Difficile non cogliere tutte le positive ricadute per il nostro paese. Vero è che l'opera costerebbe molto denaro, tanto che per la tratta italo-francese l'Europa ha stanziato 3 miliardi di euro a parziale copertura dei 10 miliardi di costo previsto, proprio per incentivare Francia e Italia nella realizzazione del progetto. Tutto chiaro, no? E infatti la Francia è già a buon punto, mentre di qua dalle Alpi... Un'opera fondamentale e irrinunciabile, l'aveva definita Silvio Berlusconi 5 anni fa, l'8 dicembre 2005. Di più, essenziale per il nostro futuro, aggiunse il 3 marzo del 2006. Per questo ha sentenziato il Premier il 23 febbraio 2009, la Torino-Lione si farà. Da quella promessa sono passati quasi 2 anni. I francesi dall'altra parte delle Alpi hanno scavato 3 tunnel e invece noi siamo qui ad augurarci di poter evitare l'ennesima brutta figura europea, come al solito, in extremis. Che Bruxelles avesse capito quale piega stava prendendo in Italia la faccenda era chiaro già 6 mesi fa, quando il coordinatore europeo del progetto Corridoio 5 Lisbona-Kiev dichiarò: «I finanziamenti europei sono disponibili, ma i paesi interessati devono dimostrare di fare avanzamenti concreti, altrimenti l'Unione Europea potrebbe decidere di prendere in esame altri progetti, e sono molti». Avvertimento inequivocabilmente diretto al nostro paese. Senza però colpire il bersaglio, a giudicare dai risultati. Così la prospettiva di perdere i 672 milioni di euro di fondi europei già stanziati e di conseguenza mandare all'aria tutto quanto, si è fatta maledettamente concreta. A Bruxelles si sta seriamente ragionando sull'invio di un clamoroso ultimatum a Roma, ma si stanno pure prendendo in considerazione le eventuali opere alternative da finanziare. Per scongiurare l'eventualità che i finanziamenti europei vengano dirottati altrove, i margini sono risicatissimi. Bisogna aprire entro marzo 2011 il cantiere per il tunnel esplorativo sul versante italiano, operazione oggettivamente complicata e non perché manchino i quattrini. 15 giorni fa il CIPE ha stanziato 143 milioni. Il problema è il contesto ambientale, con le ostilità della politica locale che si sommano a quelle degli oppositori più radicali, i quali considerano quella alla TAV la madre di tutte le battaglie. Prima ancora di aprire i cantieri, però, si deve concludere entro la fine dell'anno il negoziato per rinnovare l'accordo del 2001 con i francesi. E questo è il nodo più difficile. C'è un aspetto finanziario non trascurabile. L'opera costa 10 miliardi di euro, di cui 3 a carico del bilancio comunitario. In base alle vecchie intese, grava sulle nostre spalle il 63% dei rimanenti 7 miliardi, ovvero 4,4 miliardi. Tantissimi soldi, mentre la Francia deve farsi carico solo del 37%, vale a dire 2,6 miliardi. L'Italia chiede di riequilibrare le rispettive quote portandole più vicino possibile al 50% ed è stato individuato un ipotetico sentiero, anche se piuttosto tortuoso. A questo punto servirebbe un colpo di reni, che potrebbe dare un governo forte, nella pienezza dei propri poteri. Ce la farà invece un esecutivo fragile, sfiancato da mesi di polemiche interne e il cui orizzonte certo arriva appena al voto di fiducia del 14 dicembre? I segnali purtroppo non vanno in questa direzione. La vicenda TAV altro non è che la cartina di tornasole di un clamoroso disarmo. L'incredibile decisione di fermare i lavori della Camera fino a quel giorno la dice lunga sull'attenzione che la politica italiana sta dedicando a tutto ciò che non siano i destini del palazzo. Ma di questo passo, anche se riuscissero a salvare i fondi europei per la TAV, davvero si andrà poco lontano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Torino-Lione, un'opera ad alto rischio di figuracce, pubblicato a firma di Sergio Rizzo dal Corriere della Sera del 7 dicembre.